da spiegare, su una linea da ascoltare, di una corda da slegare, 10 nodi per partire. Dispongo di periodi e posizioni, ignote soluzioni, di discese di alti piani, frutti di bosco, menta e tulipani, essenze di assenze, solitudini di un'isola senza me, di pareti, paure e pendii, di stendere aquiloni. Passi e poi pause, ricordi e bugie, piccole cose, minime mie. Dispongo del raccolto di uno vivo per miracolo. Ascolta il mio racconto, il miracolo di vivere. Dispongo del raccolto per miracolo, ascolta il mio racconto, del miracolo di vivere. Che il vento sia colore, propongo a questo viso che mi guarda solo un calice di luce. Dispongo sul confine le parole a spiegare voli al sole. Passi e poi pause, suoni di vie, piccole cose. Dispongo del raccolto di uno vivo per miracolo. Ascolta il mio racconto del miracolo.